Beh, è andata Oddio. bene. 94, 88, 90. Benvenuti. Sì, vai tu, vai tu. Benvenuti in questa puntata dove Salla non parlerà, o meglio, parlerà solo per dire, per insultare. No, non è vero. Una puntata che Salla non voleva fare, perché vuole solo lamentarsi e non guardare film lunghi. In questa puntata parleremo di Avatar, come si chiama? Fuoco e Cenere in italiano. Sì, Immagino. Fire and Fire and Ash. Ash. Penso che ho tradotto letteralmente a sto giro. Meno male per una volta. Che è il terzo film della saga. La saga che penso abbia il dislivello più grande fra quanti soldi fa e quanto poco le persone ne parlano quando non è al cinema. Continua, diciamo, la mia esperienza perché virtualmente non ho sentito nessun risalto, diciamo, mediatico per questo film, ma comunque ha fatto un botto di soldi. E è un film del 2025, in realtà, uscito a Natale. In realtà penso la prima uscita fosse il 19, forse uscita diffusa il 19 dicembre. In contemporanea al gioco, anzi al DLC, all'espansione di Avatar Frontiers of Pandora, a cui hanno lavorato i miei colleghi, che si chiama From Salutiamo i the tuoi Ashes, colleghi. Questa puntata è che sponsorizzata da Ubisoft. sponsorizzata da Ubisoft. Manda No. la fattura Jacopo. Esatto. Manderò lo stipendio forse se gli va. Comunque, no, molto, molto carino il gioco e ve lo consiglio, ma non siamo qui per parlare di quello, parliamo del film. Solito film di Avatar, quindi diretto da James Cameron, scritto da James Cameron e i suoi amichetti, Rick e Amanda, prodotto da James Cameron, voluto da James Cameron, forzato da James Cameron a Disney. Con i soliti Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Steven Lang e gli altri che amiamo. La storia, senza fare spoiler, se magari qualcuno per qualche motivo non l'ha visto, comunque si concentra su il solito Jack Sully e Ne Tiri che hanno le diatribe matrimoniali, eccetera. Se non avete visto il 2, andatevene ora. Ciao. Diatribe che seguono dal finale del secondo, quindi la morte di uno dei figli, dei loro figli. Cioè, letteralmente continua da quel punto. Esatto, cioè po pochissimo dopo, veramente, boh, penso qualche giorno dopo. E quindi loro stanno ancora, come si dice, sono ancora nella In fase lutto. di lutto, di processamento del lutto. Diciamo che la storia qui si concentra un leggermente di più sugli altri membri della famiglia e su altri membri del cast, come ad esempio l'altro figlio, che anche lui a modo suo ha perso comunque, sta processando il lutto, e la figlia adottiva e insomma, meno gli altri, anzi no, forse anche l'uomo scimmio, il ragazzo scimmio, Spider, che era anche nel secondo. Ancora un pochino di più rispetto a due, forse importante il cattivone, Miles Quaritch, che è stato diciamo riportato in vita per il secondo. Dobbiamo continuare il franchise, torna in vita. Niente, diciamo, per non spoilare altro, questa è la storia, perché già dopo i primi, boh, penso 10-15 minuti. Prende una piega completamente diversa rispetto al secondo come impostazione, ma possiamo già, cioè posso già fare un commento prima di passarvi la parola. A Vale. livello visivo, Tanto ho visto solo devo io. dire che questo film a livello visivo non mi ha fatto impazzire. Cioè, il secondo, secondo me, era molto più spettacolare, è stato un avanzamento molto molto evidente a livello di tecnologia, sia per diciamo, l'animazione facciale, la qualità insomma dell'animazione dei personaggi, sia per l'acqua, per l'interazione con l'acqua. Il secondo veramente è stato un passo in avanti gigantesco. Alcune scene le vedevo e dicevo: ma come cazzo, cioè, no, questa cosa è impossibile da fare. Non si può fare interagire un uomo reale con un uomo in CGI, con l'acqua in CGI, cioè è un bordello. Nel secondo, quella roba comunque c'è ancora, ma avendo, cioè scusate, nel terzo, nel secondo era già stata fatta secondo me abbastanza bene, per cui nel terzo si nota di meno. Il fuoco nel terzo è abbastanza impressionante, ma siamo forse più abituati a vederlo al cinema, il fuoco, come effetti speciali, e meno abituati a vederlo nella realtà, in alcune forme, diciamo, più spettacolari. E quindi, boh, secondo me, come effetti speciali, non è la cosa più spettacolare che ho mai visto, più innovativa, mettiamola così. Di conseguenza, essendo questa, diciamo, la colonna portante per me dei film di Avatar, non è che mi abbia fatto incazzare, non mi ha fatto incazzare, cioè ho un sacco di colleghi con cui sono andato a vederlo che sono rimasti un po' incazzati. Io onestamente no, cioè mi aspettavo esattamente questo film, è quello che ho visto e basta, cioè non ha particolari punti alti, poteva avere un punto alto, poi ci arriviamo, ma non l'ho avuto, cioè è stato un momento dove ho detto, oh mio Dio, stanno per dire questa cosa, invece poi non l'hanno detto, e quindi niente. Quindi questa è una opinione senza spoiler. Possiamo fare poi una sezione con degli spoiler, con gli spoiler? Certo. Perché altrimenti diventa un pochino più difficile, perché sì, perché poi la trama in realtà, cioè senza aggiungere spoiler, sostanzialmente continua a seguire la battaglia, la guerra che aveva iniziato nel secondo. Sono d'accordo sugli effetti speciali, nel senso il fuoco è bello, però non è niente di spettacolare. Il vantaggio che gli effetti speciali siano belli, ma belli come quelli del secondo, ha fatto sì che uscisse a un anno di distanza e non 10, cosa che un po' ho apprezzato. Cioè almeno mi ricordavo cosa fosse successo senza per forza doverlo rivedere. Secondo me un po' anche il fatto che di fuochi ce ne sono un botto nel cinema, sia sì, di fuochi di merda, sia di fuochi molto belli, ma di acque sono tutte di merda, quindi no, era incredibile quello. Cioè l'acqua, oltre ad essere incredibile, interagiva con cose che non esistono nella realtà. Le balene di Pandora, che non si chiamano balene, assomigliano alle balene, è vero, ma non sono uguali fisicamente. Quindi loro dovevano creare queste interazioni tra cose che, tra l'acqua che tu esiste, sai come ti aspetti che si muova, e qualcosa che realmente non esiste, quindi era assurdo sta roba. Il fuoco non fa robe strane, cioè non è che interagisce in maniera strana o impressionante. È esattamente come lo vedi, cioè è un bel fuoco come lo vedi in altri film, quindi non hai questo effetto sorpresa wow straordinario. Poi sono comunque bellissimi gli effetti speciali, cioè comunque probabilmente rimangono tra i migliori anche di quest'anno. Ti sorprendono meno perché effettivamente non hai quello sbalzo assurdo che hai avuto nel primo e che hai anche già e che hai di nuovo nel secondo. A me non l'ha fatto incazzare. Nel complesso a me è piaciuto. Non sono un ultra entusiasta, tipo il primo era stato, cioè mi era piaciuto un sacco, penso di averlo visto anche due volte al cinema. Il secondo non mi era piaciuto, come penso tipo tutti. Questo sta in una via di mezzo, in una roba per cui mi è piaciuto più del secondo, ma molto, non sono entusiasta come nel primo. Però dobbiamo parlare un attimo della lunghezza del film. Porca puttana, se è lungo, mamma mia. Troppo lungo. Allora, nel complesso io ho trovato che scorresse abbastanza, con una parte centrale un po' lenta, un po' da tagliare, secondo me ne avevano a mani grosse. Sì. Diciamo che per me non è stato così pesante, perché sono andata al primo spettacolo alle 7 di sera di un giorno festivo e c'era l'intervallo. L'idea di vederlo dalle 9 di sera in poi per me era ai limiti dell'inconcepibile. Tra l'altro adesso racconterò questa cosa, per cui a Torino non ci sono delle grandi sale, cioè non sono particolarmente belle. Una delle poche sale decenti. Non sono belle, che tecnologicamente fanno cagare. Sì, sono un sacco di cinema indipendenti e storici. Quindi le sale sono bellissime esteticamente, però. Dicevo che tecnologicamente sono rimasto un po' indietro. Una delle poche che invece che poteva rendere un po', ovviamente, cioè andava prenotata prima di andare al cinema, perché altrimenti non avremmo trovato i posti. prima, quindi questo l'ho fatto prima di vedere la durata del film, quindi entro sul sito, guardo, cerco dei posti, era già tutto pieno, cerchiamo per la domenica pomeriggio, che abbiamo trovato dei posti decenti, stavo per prenotarli, giusto prima di passare allo step del pagamento mi viene un secondo di dubbio, dico ma fammi andare a vedere quanto dura sto film. Quando ho visto cosa sono i minuti, tipo 180, 190, 210, non mi ricordo, ho guardato e ho calcolato più o meno quanto era e ho detto, mi sono girata verso Sala e gli ho detto, vabbè, ci vado da sola, non ti preoccupare. Che dolce. Ho detto, ci vai con tuo padre. Tuo padre vuole andare? Sì, bene, ciao. Sì, alla fine mia madre non ne aveva mezza, e quindi ci siamo trovati io e mio padre e l'abbiamo visto nel cinema decente di Cuneo. Però sì, ero disposta ad andare da sola anziché trascinarlo in questa forma di agonia per lui. Tu l'hai sofferto tanto, Jacopo, la durata? Allora, come hai detto tu, ci sono dei pezzi in mezzo che veramente, cioè, ripensandoci ora, dico, ma che senso c'ha? Qual è il senso di questa cosa? Veramente potevano tagliare alcune scene completamente, altre ridurle tantissimo all'osso. Cioè, secondo me la sceneggiatura è poco economica, è poco stringata. Cioè, faccio il paragone con Sisu. Sisu letteralmente non c'è una parola sprecata, nel senso... Vabbè... Cioè, ci sono poche, esatto. No, ma dico, cioè, idealmente ci sono alcune scene che dico, capisco perché hai voluto metterle, ma vabbè, sentite, spoiler. Partiamo con gli spoiler perché sennò non riesco a esprimere. È complicato, sono d'accordo. Esatto. Allora, tanto Salla, Andrea. Vederlo. Esatto, no, tranquilli, tanto e Salla so già la risposta. No, io non lo voglio vedere, io ho finito col franchise, ne hanno annunciati allora, altri 15. Allora, vi spieghiamo la trama. Il cuore di questo film è il ragazzo quello umano che va in giro con loro, perché a un certo punto gli finisce l'ossigeno della maschera, non ci hanno a portata di mano un'altra bombola di ossigeno, e quindi la ragazza, quella, come dire, il mezzo clone di Sigourney Weaver, usando i suoi poteri, diciamo, di connessione con il pianeta, con Ewa, lo fa diventare una specie di, non di ibrido, cioè nel senso, allora lui rimane uguale esteriormente, ma internamente gli cambia un po' la biologia, quindi lui riesce a respirare da quel momento in poi. Aspetta, che facciamo incazzare Salla. E gli viene la treccia. Ah, facciamo incazzare Salla. Sì, esatto, la spiegazione biologica per cui succede questo è che entra un fungo che entra in simbiosi con lui, con i suoi polmoni e tutto il suo organismo e gli permette quindi di respirare su Pandora, oltre che fargli crescere la treccia, che gli permette di connettersi a Ewa. Cioè, non solo respira, gli ha pure fatto il pene. Ci sta, in fondo, perché no? Tanto voglio dire, finora avevamo fatto tutta la spiegazione, la pseudo-spiegazione, la pseudoscienza, quest'anno mi andate in vacca così a cazzo. Ma sì, sa, tanto i funghi pure in The Last of Us ormai stanno bene ovunque. Ma guarda, quasi meglio. E quindi niente, c'ha questo simbiote fungineo dentro i suoi polmoni, che però lo rendono un bersaglio, perché all'improvviso gli umani potrebbero trovare un modo per respirare su Pandora, quindi ovviamente diventa diciamo il ricercato numero uno per gli umani, perché ovviamente loro se ne accorgono in tempo zero che esiste questo tizio che può respirare, ed è anche il figlio di Quaritch, quindi Quaritch doppiamente lo... Agli umani cosa gliene frega? In fondo loro erano lì solo per scavare le risorse. Beh, no, perché prima di far arrivare le risorse, cioè nel senso, per scavare tu devi avere delle risorse stanziate lì. E uno dei problemi che hanno è l'ossigeno, nel senso, se questi stanno sul loro elicotterino e sparano, ma gli aprono un finestrino, gli umani schiattano. Cioè, è logisticamente complicato. Adesso, diciamo che Vabbè, però è un aiuto importante per le operazioni, perché il loro piano... Esatto, perché il loro piano è anche di lasciare la Terra che l'hanno rovinata e mettersi magari su un altro pianeta come Pandora, quindi diciamo che è un grosso ostacolo logistico non poter respirare in un pianeta dove vuoi comunque estrarre cose, lavorare, combattere e magari Musk non a un certo punto detto, abitare. comunque vabbè, questo è la trama, cioè alla fine ruota tutto attorno a lui, a questo ragazzo scimmia. E come dire, alcune scene secondo me sono azzeccate, cioè per me l'idea di farlo diventare lui il cuore del film è azzeccata, e tutte quante le, diciamo, i conflitti che si generano sono interessanti, ma non sono sfruttati bene. Un sacco di scene con Jake Sully e con Quaritch potevano diventare molto più interessanti, diventano invece imbarazzanti o, come dire, non le spingono fino in fondo. Quindi per me un esempio di questo, diciamo, di questo potenziale è quando Jake Sully a un certo punto sta per uccidere il ragazzo scimmia, perché si rende conto che è una minaccia alla sua esistenza, no? Cioè se lo trovano, se lo analizzano bene, potrebbero perdere la guerra. E questa scena, da un lato, secondo me ci sta perché è molto biblica, cioè tipo, no? Abramo, Isacco, è molto anche un modo per avere un po' di debolezza, per aggiungere, come dire, un difetto a Jake Sully, perché Jake Sully ha tanti difetti, ma, come dire, è comunque un marine eroe che spara, fa cose, cioè comunque, non so, va reso interessante, perché se no rimane sempre uguale. E quindi vabbè, una soluzione è abbandonarlo, che ci potrebbe anche stare a questo punto, abbandonarlo un po' come personaggio. Una soluzione è aggiungere questi dubbi, queste questioni, però non serve un caso, cioè nel senso, non è che poi il ragazzo scimmia dopo questa scena, cioè lui durante la scena dice proprio ho capito, cioè non è che dice non mi uccidere, che cazzo fai, sei uno stronzo, ti odio, oppure mi hai tradito, e di e poi cioè, esatto, non la spingono, perché comunque secondo me non si possono permettere, non vogliono abbandonare Jake Sully come personaggio, non si possono permettere di renderlo troppo complicato, troppo grigio, quando in realtà già un po' lo è. E quindi boh, sta cosa è una cosa, non so, potenziale sprecato, non so cosa ne pensi tu. Sì, in realtà più che... cioè, quella scena mi ha dato... cioè, non mi è piaciuta particolarmente, ma la cosa che secondo me è molto sprecata è... perché tutta questa... vabbè, questa realizazione deriva anche dal fatto dell'elaborazione che loro hanno del lutto. Nel senso, lui all'inizio dice no, lo difende, però dopo un po' inizia a vedere negli umani il male assoluto, in tutti gli umani, perché hanno ucciso suo figlio. Però è lasciata molto lì, cioè nel senso, anche lì l'elaborazione del lutto non sembra quasi che non ci credano fino in fondo. Non sì, lo rendono veramente cattivo, inasprito. Lo lasciano sempre lì in quella terra di mezzo per dire, boh, ci guarda che c'è ancora possibilità di redenzione. Quindi tu sai già che alla fine lui farà la cosa giusta. Già, è un problema. Sì, è un problema perché... quella scena, tu la guardi e il colpo di scena sarebbe stato se lui l'avesse ucciso. Perché io mi aspettavo letteralmente che lui alla fine non lo uccidesse e anche la moglie lo accettasse. Già, poteva diventare una cosa molto più importante, diciamo, molto più centrale. Molto più simbolica, sì. Ma poi tante cose, cioè nel senso... Allora, anche cioè, il figlio, il senso di colpa del figlio, secondo me è una delle robe che hanno più buttato via del film. Cioè, o la togli, che per me va benissimo, puoi risolvere molto più velocemente facendogli accettare, ma la prima parte in cui c'è lui, che ogni tanto si ricorda di sentirsi in colpa, proprio buttata via. Cioè, sì, l'ha reso anche quando lui... Sì, sì, anche Jake Sully, il rapporto con Jake, insomma, padre, sì, questa cosa. Molto buttato lì. C'è stato un momento che è quello che dicevo prima, perché comunque questo film continua con la storia delle, dei cetacei, de, insomma, di quella razza pacifica che viene macellata, distrutta da quei cacciatori di balene, che, dove ho pensato, cavolo, c'è questa specie di consiglio dove stanno parlando del fatto di andare in guerra contro gli umani, no? Stanno cercando di convincerli finalmente a... Cazzo, andiamo a sfondarli perché possiamo sfondarli se vi alleate con noi, eccetera. Per me tutta quella parte sì, poteva essere più corta, ma quello poteva diventare, quel momento lì poteva diventare molto più potente, perché quello che potenzialmente stavano dicendo in quella scena era in realtà un commento sulla resistenza armata, no? Cioè sul fatto di dire sì, avete ragione, il pacifismo è giusto, ma non se dall'altra parte, come dire, c'è infinita violenza, cioè nel senso, dall'altra parte, dalla parte degli umani, non c'è, se non danno, come si dice, carburante sul fuoco, se non gettano benzina sul fuoco i cetacei, noi prima o poi smettiamo. No, cioè loro continueranno a fracellarli tutti. Quindi mi piace alla fine che il messaggio passa, ma secondo me potevano spingerla molto di più come cosa. L'hanno un po' resa, come dire, anche lì l'hanno spinta troppo poco, secondo me. L'hanno lasciata un po' tutto mid, cioè tutto lì a metà. E anche i tizi cattivi, perché una cosa che non abbiamo detto... che erano appunto nel marketing di questo film, sono i, diciamo, i navi cattivi. Cioè, per la prima volta appaiono, che io sappia, nei film, questi corsari, come si chiamano? Guan, come cazzo si chiamano? Maguan, che hanno queste pitture, no? Rosse, esatto, rosse, bianche, eccetera, che adorano il fuoco, adorano il vulcano e odiano Ewa. Mai sentiti? E loro dicono, ah sì, i corsari Manquan, ah grazie, ok. Fateci attenzione, mi raccomando. Esatto. E questa cosa, cioè, nel film è molto buttata lì all'inizio, e non capisci chi cazzo sono, da dove vengono, e nel marketing era ovunque. Sì, ma poi li ritrovano in tre nanosecondi, cioè nel senso non è tipo un popolo che prima era nascosto per questo, o chiuso e quindi non sapevi della loro esistenza. No, perché poi gli umani, quando vogliono allearsi, li trovano nel giro di 5 minuti. Quindi sì. Non è che si stessero propriamente nascondendo. E quindi questo. Diciamo anche loro potevano spingere di più, potevano farli meglio. Anche se devo dire che forse la mia parte preferita del film è il rapporto fra Quaritch e la tizia, la strega che sta a capo di questi qua. È molto, come dire, divertente, perché è il classico meme dell'americano, diciamo, conservatore che adora i fucili, adora la violenza, che si mette con la tizia, capito, non so, immigrata, anche lei super conservatrice per qualche motivo, che lui vorrebbe magari deportare, ma non lo fa perché è sua moglie. Il classico meme della dissociazione... non so, della dissonanza che hanno in testa gli americani di destra. Ma in italiano c'è ancora bro, oi bro, yeah bro. Sì. Purtroppo sì, io ne ho contati 7. Sì. Io non li ho contati, però 5. Sì. Però dopo averlo sentito dire a mio cugino di 22 anni, mi sono dovuta ricredere. Vabbè, fa ridere uguale. Fa ridere uguale, però purtroppo effettivamente era la traduzione giusta. Bro. Posso fare bro. Uno spoiler che proprio però, cioè, sul del finale? Vai. Tanto ormai. Una cosa che ho apprezzato invece tantissimo è stata che non c'è la redenzione del generale. Alla fine lui non si converte. No, ma perché certo, il terzo film di 6. Ovviamente non si redime. Ah, domanda, c'è l'effetto Star Wars secondo te? Allora, me l'aspettavo un po' di più, perché onestamente io non avevo guardato l'orario e quindi pensavo che il film fosse finito, ma in realtà eravamo a metà. Quindi a un certo punto ho detto, ah, e mo finisce e poi inizierà su qua. E invece no, cioè il film finisce, è molto più conclusivo. Il cadavere. Ah, sì, no, non è morto ovviamente, certo. No, ma ovvio. Ah, ma Sara, quindi tu lo sai? L'hai visto? No, no, so no, cos'è no. L'effetto Star Wars. No, perché la prima cosa che gli ho detto quando sono uscito dalla sala. No, allora... Sai che in Star Wars tutti cioè se non vedi il cadavere... Tipo, ogni tanto anche se c'è cioè, il cadavere. Darth Maul infatti vedi il cadavere ma in realtà è ancora vivo, quindi se non vedi tipo bruciare la persona è ancora tutto vivo. Buono. È ancora vivo, vabbè. No, allora, perché realtà, per sì. Quasi tutte le sue interazioni con Jake Sully sono sul fatto che Jake Sully gli dice che deve aprirsi a Pandora, deve aprirsi a Ewa, può scoprire un nuovo mondo, può abbandonare la sua vita da militare, bla bla bla. Io ho avuto seriamente paura che sul finale lui lo accettasse di diventare effettivamente una V e di aprirsi a Ewa, quello che vorrebbe dire. Quindi ho avuto seriamente paura che la scena finale fosse la sua redenzione o che da un certo punto in poi partisse il suo arco di redenzione. Invece no, lui rimane stronzo. E questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo. Cioè, hai apprezzato che non ci sia evoluzione del personaggio. un controsenso. Rimane coerente. No, cioè, il signore rimane molto coerente. Sì, no, non è scherzando. Banale. Sì, no, proprio... No, è banale, ma quindi non lo rende più banale. Esatto. Va bene. Come vi posso dire, non l'avete venduto benissimo. No, no, ma non guardate. Penso allora... vederlo. Cioè, se ti capita in streaming, che prima o poi lo mettono da qualche piattaforma, suddiviso in un paio di parti, perché... Ma sarà su Disney? Se vuoi farti un mese di Disney e te lo guardi in due volte, secondo me ci sta. Cioè, se lo merita. Qualcuno qui suggerisce tre pure di volte. Se lo merita. No, sono contenta di averlo visto al cinema, anche se non al suo massimo potenziale visivo. Però a differenza del primo non ci tornerei al cinema a vederlo. Cioè è bello, ma non sono uscita dalla sala proprio entusiasta dicendo che cosa ho appena visto. Ma anche il secondo, cioè non so, il terzo, però il secondo era una rottura di coglioni, la trama era terribile, però almeno ha creato un'altra parte del mondo, c'era una nuova, sì, esatto. Cioè, c'erano cose nuove. Ma questo non so se è così. Questo no, infatti... Questo molto meno. Molto meno. C'è una storia che è un pochino più, diciamo, solida, per quanto alcune cose siano state buttate o non spinte, la storia in generale mi è sembrata un po' più solida del secondo, dove sembrava scritta molto di fretta. Non lo so, lo io... svantaggio. Sì, diciamo che se mettevano insieme il secondo e il terzo... e ne facevano uno solo tagliando un ma po' di so roba. Non tagliare un film, secondo te ne taglia due? Secondo me metti insieme il secondo e il terzo e tagli bene, ci poteva uscire un degno erede del primo. Comunque, grazie a tutti. Esatto, ho una questione. Volete degli spoiler su Avatar 4? Sì, tanto, tanto io andrò a vedere. Allora, a quanto pare Avatar 4 hanno già girato un terzo. Quando della... esce? 2029. Ok. Oh no, mi hanno già girato un terzo di Avatar 4 e a quanto pare il motivo è che ci sarà un time skip, quindi volevano girare una parte, come dire, di film con gli attori giovani, ancora giovani, penso principalmente Spider. Sì, anche perché gli altri CGI. Però forse anche ci sono anche attori giovani che fanno la voce. Ci sono, vabbè, non lo so. No, però tipo la figlia adottata è fatta da sì, sì, ha 60 anni. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque a quanto pare si farà questo Avatar 4, nel senso che ha fatto abbastanza soldi da farlo, e a questo punto mi aspetto che il finale sarà il 5, perché, non lo so, James Cameron ha detto se non riesco a fare il 4 e il 5 farò un libro, ma secondo me se riesce a fare il 4 e non muore nel frattempo, che cosa che non gli auguro... In realtà lui avrebbe anche altri progetti, quindi non so quanta voglia c'ha. Cioè, veramente, un uomo con una missione, James Cameron, sì. Non pensa altro. E quindi niente, questo. Ho uno spoiler su Avatar 5, ma non mi sembra molto, molto attendibile poi su Wikipedia. Anche perché se questo esce nel 2029, Avatar 5 quando esce? Dipende se fanno come il 2 e il 3, che li girano insieme e sono usciti a un anno di distanza. No, il 2 e il 3 sono usciti a 3 anni di distanza. Ma no, no, no, vivevamo già insieme. Vabbè, può essere comunque 3 2022, anni. 2022 e 2025. Sì, insieme erano comunque 3 anni. Hai passato tutto sto tempo. Già, sembra ieri. 2022, sparisce. Hai ragione. Sì, vivevamo insieme, ma erano comunque 3 anni fa. Vabbè. No, io ho cercato quanto hanno registrato con le persone che su tipo i 10 anni tra il primo e il secondo, o forse di più, era tipo meno di un anno, una roba tipo bassissima, in termini di mesi veniva espresso. E il resto era tutto post-produzione. Voglio finire l'episodio con qualcosa che non c'entra niente, quindi se non avete altro da aggiungere... No, vai. Guardatelo su Disney perché... Allora, mi sono scordato di dirvelo, di dirlo nella puntata precedente, ma hanno comprato i diritti... Ah, è la sua notizia del mese. Madonna, io ho Instagram che è murato. Allora, Apple pare che abbia comprato i diritti per un adattamento cinematografico di Mistborn di Brandon Sanderson. Infatti io godo... Grazie per questa finta reazione, Andrea. Infatti io godo e poi sono un po' di aneddoti per cui i fan hanno già fatto tipo tutti i cast. Allora, in alcuni cast hanno messo attori che in realtà sono morti, quindi vorrei... cioè, poi sono adattissimi esteticamente, però voglio vedere come li prendono. Sono morti. Risparmio sul casting. E poi pare che qualche anno fa Henry Cavill, leggendo La Via dei Re di Brandon Sanderson, gli abbia scritto, quindi... No, però gli ha chiesto di fare un... Vabbè, gli ha chiesto di fare un altro attore e lui gli ha detto Suka perché è asiatico e sei un vecchio di merda. Però ho tanti personaggi da farti fare, ha detto sempre Brandon, il nostro amico, e quindi magari ci sarà un Henry Cavill che fa un ruolo. Attenzione, sarebbe figo, ci starebbe il Lord Reggente. Detto questo, Apple potrebbe anche averla comprata per metterla in un angolo tipo alla The Studio per fillarlo. Però non si sa. Vabbè, ha scritto tanti libri, magari prima o poi qualcosa La Via dei Re possono comprarlo, però vabbè, niente. Basta. Grazie. Addio. Chiudi tu, Jacopo. Ah, sì, no, grazie di averci... No, è tardi. Cosa? Il rating di apprezzamento. Ah, sì, c'è un divario fra la critica e il pubblico abbastanza particolare. Abbastanza strano. Cioè un 66% di critica e un 90% di pubblico. Che però, ti dirò, ci può sta. Non è male come rating in ogni caso. Cioè, io no. Non c'è nessuna vergogna nell'avere un bel 6,5 di voto. Cioè, è solo lì a metà. Io da professore sono d'accordo. Io sono da ex studente. Da ex studente poi. Dai, chiudi. Ho la lasagna in forno, chiudi. Ciao a tutti, ciao, grazie di essere seguito. Ciao, buona lasagna. Ciao. Ciao. Ciao. Top record.